Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una volta scesa la nebbia, le strade si svuotarono completamente. Ci rendemmo conto che non c'era più un mezzo per tornare a casa. L'ultima corriera era partita da un pezzo. Ci incamminammo sulla via di casa attraverso la campagna e quando dal buio scorgevamo i fari di una macchina, esponevamo il pollice, tentando di chiedere un passaggio. Camminammo per chilometri sul bordo della strada. Per l'ennesima volta spuntarono in lontananza le luci fioche di una macchina e subito mettemmo in fuori il pollice. Con sorpresa mista a gioia, quella macchina si fermò. Mi chiamo Luca Bugatti, abito in provincia d'Alessandria, ma sono originario di Milano, ho 48 anni, sono sposato, tuttora lavoro a Milano come dirigente d'azienda. Perché alla fine il meccanismo con cui si fa un programma radiofonico è quello con cui si affrontano alcuni argomenti la sera a cena tra amici. Cioè, uno tira fuori una cosa e tutti hanno qualcosa da raccontare intorno. Ah, certo, anch'io. Ah, io invece ho sentito mio cugino che... L'argomento di oggi è un argomento proprio di quelli per cui quando se ne parla vengono fuori delle storie che abitualmente hanno qualcosa da raccontare. Cioè, sono storie comunque interessanti. Alcune sono terribili, altre meno. Però quando qualcuno dice, una volta ho fatto l'autostop da A... Sempre ci sono almeno su tre, due persone che dicono: l'ho fatto anch'io, io sono andato da Lecce a Brindisi. No, vabbè, che è poco Lecce a Brindisi. Però Tiziano, tu sei andato da, ricordami, Tiziano Bolini è andato da Lisbona a Barcellona, che sono tanti chilometri da lì. Lisbona a Barcellona, dal Portogallo, non avevo mai capito che era così. Quanti chilometri saranno? 1500 chilometri in autostop. E c'è qualcuno seduto a questo tavolo dall'altra parte della radio che starà dicendo: io invece mi sono fatto dalla Groenlandia. Vabbè, adesso è esagerato. Prima Lecce Brindisi, poi dalla Groenlandia. Mi sono fatto da Parigi a Roma in autostop. E allora alzate il telefono 80024 0024 per chiamare. E in diretta oggi apriamo il telefono, c'è Margherita di là pronta a sollevarlo, per la vostra tratta più lunga di autostop che abbiate mai fatto e chiaramente le storie che ci sono connessi. 80024 0024. Valgono anche gli sms che sono 349 238 6666. Vi faccio un esempio. Massimo, da Trieste ad Amsterdam con un amico siamo arrivati a Francoforte, poi siamo tornati indietro in treno fino a Padova. Marco mi scrive: Romentino Saint-Marcel. Marco deve essere per forza un mio compaesano. La cosa divertente è che Saint-Marcel è il paese con cui è gemellato il mio paese, però non capisco perché ci sia andati in autostop. 80024 0024 per chiamare in diretta, oppure 349 238 6666. Questa è la storia di autostop di Luca. Era da poco cominciato l'inverno del 1977. Ero a Milano e facevo il liceo scientifico. Erano anni grigi, scuri, piovosi. Faceva sempre freddo, o almeno a me sembrava così. C'era un'aria pesante e non solo da un punto di vista meteorologico. I postumi del 68, con tutte le sue lotte e rivendicazioni politiche, ancora facevano sentire la propria eco. A scuola i professori erano come intimiditi. Che tu frequentassi o meno, che studiassi o meno, un 6 lo portavi sempre a casa. Se come me non eri politicamente impegnato, se non eri uno schierato, ti sentivi escluso. Nella mia classe c'era un ragazzo che veniva da un paesino in provincia di Rovigo. Il padre era stato trasferito a Milano per lavoro e la famiglia lo aveva seguito. Abitavano in un residence fuori Milano. Anche lui, come me, era un escluso. Per questo diventammo molto amici. Non ricordo bene il suo nome, ricordo però il cognome e il nomignolo con cui l'ho sempre chiamato. Minù. Minù era il soprannome che avevo dato io a questo ragazzo che ho conosciuto all'inizio della prima liceo. Stiamo parlando della seconda metà degli anni 70 a Milano. E per me, che arrivavo dai Salesiani, era scoprire che esisteva un intero mondo. Questo ragazzo, che arrivava da un paese in provincia di Rovigo, era anche lui, diciamo, spaesato come me, perciò forse per questo ci siamo trovati bene insieme. Quando arrivò al Ponte dei Morti mi propose di andare a casa sua in provincia di Rovigo. I suoi genitori non ci sarebbero stati e avevamo la casa tutta per noi. Lo chiesi ai miei genitori, che titubanti accettarono di lasciarmi andare. A quei tempi, senza internet, cellulari e tutto il resto, partire così per 2 giorni significava più o meno scomparire. Arrivò il giorno della partenza. Ci accompagnò la segretaria del padre con una Fiat 127. Dopo esserci annoiati per un po', decidemmo di andare a Rovigo a fare un giro. Andammo a Rovigo perché a Rovigo c'era movimento, mentre il paesino era un mortorio. Ed effettivamente in città incontrammo alcuni amici suoi e ci passammo la serata fino a notte fonda. In giro non c'era anima viva. Una volta scesa la nebbia, le strade si svuotarono completamente. Ci rendemmo conto che non c'era un mezzo per tornare a casa già da un po', l'ultima corriera era partita da un pezzo. Ci camminammo sulla via di casa attraverso la campagna e quando dal buio scorgevamo i fari di una macchina, chiedevamo un passaggio. Niente, nessuno si fermava. Camminammo per chilometri sul bordo della strada, nella nebbia più fitta che avessi mai visto. Per l'ennesima volta spuntarono in lontananza le luci fioche di una macchina e subito mettemmo in fuori il pollice. Con sorpresa mista gioia quella macchina rallentò. Mentre ci stavamo complimentando a vicenda perché finalmente avevamo avuto fortuna, ci accorgemmo che qualcosa non andava. Sul tetto della macchina si intravedeva qualcosa di azzurro, stranamente simile a dei lampeggianti della polizia. E infatti era proprio quello, era un'auto della polizia. Ci chiesero i documenti, io mi reso conto che l'unico documento che avevo era la tessera dei mezzi pubblici di Milano. Il mio amico invece non aveva manco quella. La situazione si fece immediatamente pesante. Il poliziotto era molto scontroso e ci fece una ramanzina sul fatto che chiedere dei passaggi a degli sconosciuti in mezzo a una strada di campagna in piena notte era stupido e pericoloso. Nel frattempo noi ce ne stavamo zitti. Ci chiese le generalità e le comunicò per radio la centrale. Con sollievo, poco dopo sentii la voce gracchiante della radio che comunicava il nostro stato di bravi ragazzi tramite un... Non risulta nulla. L'ultima volta che ho fatto l'autostop è stata qualche anno dopo, durante una vacanza in Spagna in moto, dove rimasi senza benzina e quindi trovai fortunatamente un passaggio su una macchina di ragazzi francesi che mi aiutarono a trovare della benzina. Dentro di me iniziava a germogliare la speranza di averla fatta franca, quando all'improvviso il poliziotto mi chiese il numero di telefono di casa, dicendo che avrebbe fatto chiamare dalla centrale per accertarsi che i miei genitori sapessero dove ero. Ero minorenne e non si poteva fare altrimenti. In un attimo la mia mente fu come attraversata dalle idee più disparate. Mi immaginai mio padre in pigiama che rispondeva al telefono di casa, ma lo immaginai impegnato in una conversazione surreale con un poliziotto che gli chiedeva se era davvero suo figlio quello che avevano trovato nel cuore della notte in giro per le strade della provincia di Rovigo. Immaginai ogni possibile reazione e per alcuni istanti la soluzione più logica mi sembrò quella di tentare la fuga nei campi. Non fuggì. Diedi il numero al poliziotto e subito dopo lo supplicai, quasi con le lacrime agli occhi, di non chiamare, giurando che mio padre mi avrebbe ucciso. Il mio amico intanto non aveva aperto bocca, era una mummia nella nebbia. Il poliziotto ascoltò le mie suppliche per un po', scambiò un'occhiata col suo compagno, poi, senza dire una parola, aprì la portiera posteriore dell'alfetta, facendosi segno di entrare. «Ok», mi dissi. «È finita, ci stanno arrestando». Salimmo senza dire una parola. L'alfa partì e si diresse verso la città. Dopo qualche minuto ci fermammo, io pensavo di essere davanti alla stazione di polizia, invece eravamo davanti alla stazione dei treni. Ci fecero scendere e ci scortarono fino alla sala d'aspetto. Ci fecero accomodare e dopo aver ripetuto la ramanzina sulla nostra incoscienza, ci dissero di non muoverci da lì e di prendere il primo treno per tornare a casa, verso le 6 di mattina. Poi se ne andarono. Io e Minù restammo in silenzio per alcuni minuti, finché la gioia per lo scampato pericolo non ci fece saltare su come molle, a ridere e scherzare. Poi la stanchezza si fece sentire. Ci accucciammo su delle fredde panche di legno ad aspettare il mattino. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets cold. One sunny morning we'll rise, I know, and I'll meet you farther on up the road. Io l'ammetto, ogni tanto mi stupisco da solo della mia bontà, che poi, vabbè, io la chiamo bontà, ma altre persone potrebbero tranquillamente chiamarla incoscienza o stupidità. Vi spiego, io ho la fortuna in realtà di girare per Milano in Vespa, però ogni tanto, capita, uso l'auto. Ovviamente lo faccio, non sono l'unico, ma ci sono anche molti miei amici che hanno solo la bicicletta, ad esempio, oppure sostengono da anni l'azienda dei trasporti pubblici, con abbonamenti e biglietti. per cui mi capita molto spesso di accompagnare qualcuno a casa dopo essere usciti la sera. Succede anche che qualche volta vengo totalmente sopraffatto dal buonismo o dalla stupidità, e se vedo qualcuno in mezzo a una strada mi fermo per chiedere se ha bisogno di un passaggio. Ecco, molto probabilmente alla stragrande maggioranza delle persone appaio come un povero pazzo o, nella peggiore delle ipotesi, come un maniaco. Però non è che lo faccia tutte le sere. Però se la situazione è come quella descritta da Luca, cioè nebbia, freddo e strada deserta, e vedo, che so, una coppia che si aggira nel cuore della notte a piedi, io un passaggio a questi gliel'do. Una sera ho portato fino alla Bovisa, che è una zona periferica di Milano, due ragazzi che mi hanno ringraziato praticamente con le lacrime. E poi io mi sono sentito in odore di Nobel per la pace per una settimana, che è una bella sensazione. Una sera invece mi è successa una cosa decisamente inquietante. Stavo tornando da solo verso casa, saranno state le 11:30, mezzanotte al massimo. A un certo punto, a un semaforo, mi si avvicina un ragazzo, e a piedi. Tiro giù il finestrino. Lui mi dice che ha appena avuto un incidente in motorino, che non si è fatto nulla, ma che il motorino è inutilizzabile. Mi dice che l'ha legato a un palo e mi chiede se posso portarlo un po' più avanti, per avvicinarlo a casa. Io, ovviamente, presagendo un altro Nobel per la pace, mi offro di buon grado di dargli un passaggio. Sale in macchina e mi si siede a fianco. Io faccio qualche domanda in più sull'incidente, gli chiedo se si è fatto male, com'è andata la cosa. Lui però è piuttosto taciturno, non sembra uno che ha appena rischiato la vita, ed è decisamente elusivo ad ogni mia richiesta. Dopo qualche minuto, tutte e due smettiamo di parlare. Procediamo ancora un po', in totale silenzio, uno di fianco all'altro. Io guido, lui guarda fuori dal finestrino. A un certo punto, dopo poco, mi guarda e mi dice: «Ok, fermati, va benissimo qui». Io mi fermo al primo angolo e con un certo sollievo lo faccio scendere. Lui mi saluta e se ne va via in fretta, a piedi, verso l'altro lato della strada. Io mi sento un po' stranito, ma me la faccio passare subito e continuo a guidare verso casa. Il giorno dopo, ovviamente, avevo praticamente cancellato questo episodio dalla mia mente. Dopo un mese circa, però, rifaccio quella strada, più o meno a quell'ora. E esattamente dove l'avevo lasciato, lo ritrovo che sta facendo l'autostop. Io sono fermo al semaforo, lui sta parlando con il conducente di una macchina un po' più avanti alla mia. E sono sicuro che sia lui. Capelli lisci, neri, lunghi, fino alle spalle. Mi sembra anche sia vestito nello stesso modo. Ovviamente non sento quello che sta dicendo al conducente, ma evidentemente è stato meno convincente di quanto è stato con me, perché questo non lo fa salire. Per lui, niente Nobel stasera. Intanto scatta il verde, la macchina riprende a camminare e il ragazzo si sposta verso il semaforo di nuovo, in attesa. Ci passo davanti e lo guardo fisso, tentando di capire se effettivamente si tratta di lui, e allo stesso tempo provo a richiamare la sua attenzione, ma lui sta guardando da un'altra parte e i nostri sguardi non si incrociano. Comunque è lui, ne sono sicuro. Non capisco per quale motivo, ma ovviamente la cosa inizia ad angosciarmi. Cosa vuole esattamente sto tizio? Quando gli ho dato il passaggio non ha tentato di rubarmi dei soldi, non ha praticamente detto una parola, non ha fatto nulla. Quindi perché chiede dei passaggi per strada? Sta cercando qualcuno di più debole di me da fregare, forse. Non che io sia chissà che armadio, ma non sembro neanche l'ultimo degli indifesi. Oppure è uno che cerca solo ed unicamente un qualche tipo di contatto con il prossimo, uno che vuole solo salire sulle macchine altrui. Cosa dovrei farci io? Forse dovrei segnalare a qualche poliziotto che in Porta Venezia, a Milano, c'è un feticista dell'autostop. E se fosse veramente un pazzo come Rutger Hauer in The Hitcher. E poi va come spesso capita. Dopo qualche altro chilometro in macchina, me ne dimentico completamente. Ogni tanto però me lo chiedo. Chissà se quel tizio è ancora lì che aspetta. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And packed her out alone. Gotta love your man. Yeah. Da Reggio Emilia ai Pirenei. Andata a Pirenei, Bordeaux, Parigi, Friburgo, Basilea, Torino al ritorno. ah no, l'andata, perdona, Reggio Emilia Pirenei, tutto il resto al ritorno. 1966, eravamo tra i primi autostoppisti italiani. E poi ancora 40 anni fa, 50 km, Padova-Chioggia, 4 ore per farcela, almeno 15 km a piedi, uno strazio. È effettivamente una roba, io non conosco nessuno che faccia l'autostop adesso. Cioè, quando si parla di autostop, si parla di gente che lo faceva 20-30 anni fa. E non vale l'autostop che chiedi fuori da scuola per tornare a casa, perché c'è sempre qualcuno che ti conosce, che ti carica, soprattutto nei paesini. 349-238-6666 oppure 800-24-0024. Quello però da cui è nato tutto è quello che ha scritto il racconto di oggi, che è Luca. Pronto, Luca? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie, tutto bene. Dove sei? Dove ti trovi? Sono fermo in una piazzola d'autostrada, mi sono fermato per parlare con te. Perché sei di mestiere e tu vai in giro in macchina. Beh, anche, diciamo che vado molto in giro e spesso in macchina. E cosa fai di mestiere, Luca? Io mi occupo di un'azienda che fa componenti meccanici, quindi tra le varie cose vado a trovare clienti. Quindi robe complicatissime, tipo fate quei bulloni che servono per far muovere quella macchina, che serve per costruire quella roba, che comunque non sai cos'è? Più o meno sì, diciamo che quando devo spiegare che cosa facciamo non lo capisce mai nessuno. Ok, allora lasciamo stare, Luca, ci fermiamo, va bene così. Senti, qual è stata l'ultima volta che hai fatto autostop? No, l'hai fatto un'altra volta, dicevi, giusto? Sì, l'ho fatto un'altra volta, pochi anni dopo, a dire il vero, perché avevo 20 anni e stavo facendo una lunga vacanza in moto in Spagna e, come classicamente succede, rimasi senza benzina. Senti, io abbandonai la moto e fortunatamente trovai questi ragazzi francesi che mi diedero un passaggio. Senti, ma a tuo padre poi l'hai mai raccontata questa storia? Cioè, gli hai no, mai detto che è stato a tanto così da essere chiamato nel cuore della notte da un poliziotto di Rovigo? Guarda, mio padre non l'ha mai saputo e penso che anche adesso, che oramai insomma ho 48 anni, se dovessi dirglielo sarei comunque imbarazzato, non so come dire. Certo, perché ci sono delle cose per cui si è sempre figli, mai adulti, sì, per cui tipo confessare una roba del genere, non ascolta quindi Radio 24, immagino, tuo padre. No, non penso, anche se diverse persone che mi conoscono l'ascoltano perché c'ho il telefono che mi stanno arrivando messaggi su messaggi, sento. In questo momento vuoi dirmi che cioè anche il dirigente d'azienda in fondo fa l'autostop ed è figlio tutto sommato? Beh, ma sai, le etichette hanno i loro limiti, no? Per cui è vero che uno può, diciamo, essere etichettato in base al lavoro che fa, però è anche vero che può fare quel lavoro e farlo bene, anche se di fatto è una persona che poi ha delle caratteristiche. Senti, Luca, tu hai mai caricato un autostoppista invece? Ma una volta sì, ma a dire vero era un, diciamo, un autostop particolare, nel senso che ero a Milano e trovai una signora che mi chiese se potevo accompagnarla in ospedale perché mi era successo qualcosa. No, vabbè, non vale questo. Ecco, però se... per viaggi o cose del genere no, non l'ho mai fatto. L'ultima cosa invece, Luca, poi ti lascio. Scusa, su che piazzola sei? Tra cosa e cosa? Sono tra Milano e Voghera più o meno, quasi all'altezza di Pavia. Del terzo di Pavia. Non sarebbe male se ci fosse qualcuno che sta ascoltando in questo momento e sta passando di lì, se desse un colpo di clacson e noi lo sentissimo, ma magari un po' tipo, chi è che faceva? C'era qualcuno che faceva queste cose? Ah, ok, niente. Sì, era un'altra radio. Però. Allora, fai così, spiegami invece perché ho detto fai così, che è proprio una roba di Romentino, scusami Luca, fa una roba, guarda, mi spieghi perché quando hai deciso di raccontare un episodio della tua vita hai raccontato questo? Ma guarda, è strano perché innanzitutto era un episodio a cui non ripensavo da anni, perciò non so come mai mi è venuto in mente così all'improvviso, e poi forse proprio un po' per quello che ti stavo dicendo prima, perché è un episodio che normalmente non ti aspetteresti da una persona che fa una certa vita. Quindi in sostanza siamo anche le cose che non vi aspettate che potremmo essere. In un certo senso sì, poi come ho scritto anche a quell'epoca, sai, adolescente, prima volta fuori casa, c'era, valeva tutto esplorare mondo ignoto proprio. Luca, ti ringrazio moltissimo di tutto, delle chiacchiere, del racconto, e ti auguro buona fortuna. Grazie a voi, grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Nunzio scrive: Pisa, Capo Nord, lo scorso inverno, adesso la borsa e poi voi siete qui. Diamogli un passaggio. Cosa? No, non ci possiamo fermare. Ci sono i pipistrelli. Voi siete siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. È in posa con il suo cane, Luca, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Credo che sia il suo cane. È seduto su una roccia in riva a un fiume che scorre alle sue spalle. Sembra potrebbe essere quasi l'Alaska, se non fosse che invece magari la Valsesia o la Valtrompia. È estate, ha i capelli rossi, ha pochi capelli rossi in testa, Luca, e al naso un po' adunco, un po' come il mio, più o meno. E ha un cane bellissimo tra le braccia, che credo sia un Doberman. Esistono i Doberman rossi? Margherita, tu che sei esperta di cani, questo è un Doberman, giusto? È un Doberman dal pelo... Ma no, non è un Golden Retriever. No, non è un Golden Retriever. Forse è un cane da caccia. Tant'è, andate sul sito e guardate e ditemelo, per piacere. 349-238-6666 è la foto di Luca e del suo cane. Allora, in autostop, Ponte Nossa Premolo, 2 chilometri in salita. No, questi non valgono. Ciao, metà anni 80, da Monaco a Berlino, poi Rotterdam e via a casa, Modena, 18 auto, compresa polizia tedesca, e ancora Parigi, Amsterdam e altro. Stefano però l'abbiamo chiamato perché non ho capito esattamente cosa dire. 18 auto, le hai contate? Pronto, Stefano? Sì, pronto, ciao. Sì che le ho contate. Cioè, ti ricordi tutte le auto? 16 o 18, sbaglio di 2 al massimo. Senti, la polizia pure, perché ero in autostrada, non potevo rimanere, cioè loro mi hanno incaricato loro a portarmi in area di servizio. Ricordami però il giro esattamente, sei partito da Monaco? No, da Modena con un amico, che poi dopo ci siamo un po' rotti, a Monaco ci siamo salutati, poi ho fatto Berlino, c'è ancora Berlino Est, da Berlino poi Olanda via casa. Ma quanto tempo ci hai messo? Settimana. Una settimana? Una settimanina, sì. Ma sì, beh, sei stato praticamente sempre in automobile, però. Abbastanza. E quanti anni avevi? 22, 23, metà anni 80, sì, una ventina, 22, 23 anni. Ma e perché l'hai fatto? Perché volevi farti un giro su 18 auto diverse oppure perché volevi vedere qualche posto? No, lo scopo era andare a Berlino con suo amico in macchina. Poi sì. Ci siamo rotti. Ma cosa vuol dire vi siete rotti? Stefano. È andato fatto per caso. No, ma non ho capito, vi siete rotti nel senso che avete rotto l'amicizia o vi siete stancati? No, l'amicizia no, era un po' pesante lui in macchina, se non ci trovavamo in macchina, non mangiare il panino, non fare il briciole, sembrava Marrakesh Express, si mangia, si mangia e si beve all'unisono. Senti, Stefano, cosa fai nella vita adesso? Camionista, sto lavorando. Ah, quindi sei in camion in questo momento? Sì. Ti capita di caricare qualcuno? L'ho fatto, ma adesso qua ne vedi poche. Sì. Quando facevo un altro tipo di mestiere, ho trovato gente strana, dall'Inghilterra l'ho portati fin qua a Modena, ho fatto 2 volte la manica col cane sopra, che non potessi caricare i cani dall'Inghilterra. Perché hai fatto la manica col cane, scusami? Ah, era solo un ragazzo, ha bisogno di un passaggio e niente, l'ho caricato io. E non si possono portare gli animali fuori... Ma so che c'è un po' di noli in Italia. Ah sì, ci sono le leggi di quarantena. Sì, è vero, bisogna, è vero. Più di tanto non ho chiesto. Figo, tu hai caricato e dritto, Stefano. Sì. Cosa trasporti? Legno. Ma sempre legno o solo adesso? No, 4 anni. 4 anni che sono in sto stadizio, facciamo trasporti. Ah, ecco, cioè non sei. Non lavori per te, lavori per questa azienda, no, che trasporta legno. Sì, diciamo dipendente, dai, quello che tu. Dai, va bene, diciamo così, Stefano, grazie mille. Buon. Ciao, grazie. No. Vale tutto con Stefano. E niente, non ci trovavamo. Senti, andiamo a sentire. Aspetta un attimo, che non sono più abituato a avere tutte queste telefonate. Andiamo da Andrea, da Vicenza. Pronto Andrea? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu ti sei sparato? Io bene, grazie. Sei sparato da Buenos Aires fino alla Terra del Fuoco. E poi fino alla Bolivia. E poi sono risalito, sì. Ma come mai? Ma praticamente era un modo per viaggiare quando non trovavo i mezzi, no? Siccome era un po' bassa stagione. Allora... Era bassa stagione di quanti anni fa, tra l'altro, Andrea? 3 anni fa. Ah, 3 anni fa, mica neanche tanti. Sì, fa conto, era la fine di dicembre e poi gennaio, febbraio, e non c'erano autobus e mezzi, quindi era un po' una scelta obbligata, no? Certo. E quanto ci hai messo a fare questo giro? Beh, il viaggio, diciamo, in sé dura 3 mesi. Praticamente sono sceso, poi sono risalito in Bolivia... Diciamo che invece la discesa fino a poi tornare a Buenos Aires l'ho fatta col bus, insomma, ecco. Andrea, ti ringrazio moltissimo e in bocca al lupo. Prego. Ciao, prego. Grazie. Andiamo a Verona da Ciro, perché scusami, Ciro, ci sei? Sì, pronto. Ciro, scusami, tu nel 71 ti sei fatto da Verona all'Iran in autostop. Alla Persia di allora, la verità. E come mai, Ciro? Perché a quei tempi si viaggiava in autostop, scusa. Io, scusami, sono del 75 e quindi ho perso quegli anni, gli anni migliori dell'autostop, evidentemente. 71? No, capito, sì, no. Ti dicevo, io sono del 75, quindi non avevo presente che in quell'epoca sì, l'autostop andava così forte. Quanto ci hai messo? Quante macchine ti hanno caricato? Io sono arrivato fino all'India, a dire la verità, però dopo non si poteva più. Ma scusami, Ciro, perdonami, ma quindi stiamo parlando di fricchettoni veri qui? E che c'entra? Ci sono fricchettoni che sono ingegneri. Ma quindi eri già medico, no? No, ero al primo anno di medicina, mi sono preso un anno libero perché non sapevo bene quale sarebbe stato il mio futuro e quindi ho deciso. Qual è stato il mezzo più assurdo che ti ha caricato? Non so dirti adesso, non è che ricordo tutti quelli che mi hanno caricato, però sono partito dall'autostrada di Verona tramite la Jugoslavia, la Grecia, la Turchia e la Persia. Poi lì, come ho detto, bisognava prendere un autobus perché non passavano macchine, insomma. Ma scusami, e ti ricordi però quanto... quasi un giorno, 12-13 ore prima di aspettare di trovare qualcuno che ti caricasse. E quanti giorni, quanto tempo ci hai messo? No, sono stato via 6 mesi. Ok, però dico più o meno una stima del percorso del viaggio, sì. Alla Persia, no, sono arrivato in 15 giorni, credo. E dove dormivi? Fianco alla strada, con il sacco a pelo e la maca, quando non sapevo se c'erano serpenti, stendevo la maca tra due piante e dormivo. Da solo l'hai fatto? Sì. Quando sei sulla strada devi conoscere questi trucchetti qua, se no cosa fai? Ah beh, no, lo immagino. E adesso che medico sei? Mi occupo di Ayurveda da 25 anni. Quindi è una cosa che ti sei portato dietro dall'India o non c'entra nulla? Sì, io sono andato in India perché a quei tempi, insomma, sai, Goa, di quei tempi era la spiaggia bianca dove tutti si arrabbiavano in qualche modo. E poi in India mi è capitato per sbaglio di entrare in un tempio e ho visto una spiritualità che non trovavo in Italia. Io ero abbastanza religioso allora, nel senso cattolico religioso. Per cui quando sono tornato ho detto, ma ti dai provo a indagare cos'è questa cosa, no? Ero abbastanza scettico, devo dire. Sì. Invece mi è capitata la meditazione trascendentale di Maharishi, sai, il guru dei Beatles di allora, no? Ammetto di essere un po' impreparato, Ciro, riguardo a queste cose, però insomma, più o meno ho capito l'ambiente in cui ci muoviamo. Quindi sei tornato e te la sei portata qua. Ho imparato la meditazione trascendentale, ho visto che produceva un sacco di benefici a livello mentale e fisico, dopodiché ho cominciato a studiare un po' di scienza vedica, che non è la religione dell'India, e da lì sono arrivato all'Ayurveda, per cui poi ho cominciato a fare il medico ayurvedico. Ciro, è tutto, grazie, un po' anche grazie all'autostop. Grazie mille del tuo racconto. Sì, prego, arrivederci. Ciao, buona giornata, grazie. Non vorrei che se la fosse presa perché gli ho dato il fricchettone, per me è quasi un complimento per certi versi. In Romania è normale fare autostop perché lì non tutti si possono permettere l'auto. Aurelio, grazie ad Aurelio, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la puntata di oggi, che sono Federico Bernocchi, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Luca, parlava di autostop. Quella di domani la storia di Riccardo e parla del bisogno di sentirsi blanditi. E io di solito, quando qualcuno mi tratta così, sono sempre diffidente, perché penso che voglia fregarmi. Tipo che vuole vendermi qualcosa. Ma quel panettiere poteva darmi al massimo un pezzo di pane. Ed ero io che ero entrato nel suo negozio, non era lui ad essere venuto a casa mia. E poi mi aveva fatto sorridere, anche perché mi aveva preso alla sprovvista.